AVS Media Demo. Ricordi importanti non tornerai mai, perché il tempo non ti cancellerà il tuo dolce sguardo con me vivrà. AVS Media Demo. Hanno dentro i ricordi tuoi, ora è troppo tardi e tu te ne vai. Una canzone d'amore, ricordo AVS Media Demo. Giorni con te, sempre presente al tuo fianco, un triste rimpianto, capì? Media Demo. Nei miei sogni spazio io ti darò, riusciranno ancora i ricordi tuoi a sfiorarmi il viso, ma AVS Media Demo. AVS Media Demo. Media Demo. Cresceranno dentro i ricordi tuoi, ora è troppo tardi e tu te ne vai. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Il tempo non ti cancellerà il tuo dolce sguardo con me vivrà, cresceranno dentro i ricordi tuoi, AVS Media Demo. Dietro.